Bienvenue. Un documentaire de Fabienne Lomonier en collaboration avec Élise Gruau et Alexandre Cosin. Mise en onde, Christophe Rau. Avec les voix de Mathilde, Oussama, Kim, Stéphane, Georgia, Alex, Ibrahim et Omar. Merci à SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières et à l'équipage de l'Aquarius. Steady 1, 3, 2. OK. Une production de Fabienne Lomonier avec le soutien de la CSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Destination Tripoli. Ici un bateau de sauvetage. Sì, in partenza Aquarius. Sì, per noi autorizzati. Ok. Radio Riace International. Non gridatemi più dentro, non soffiatemi in cuore i vostri fiati caldi contadini. Beviamoci insieme una tazza colma di vino, che all'ilare tempo della sera si acqueti il vostro vento disperato. Spuntano i pali ancora, le teste dei briganti e la caverna. L'oasi verde della triste speranza. L'Indo conserva un guanciale di pietra. Ma nei sentieri non si torna indietro. Altre ali fuggiranno dalle paglie della cova, perché lungo il perire dei tempi l'alba è nuova. È nuova. Radio Riace International.